Saluti e sigle? Ok, grazie a tutti per l'ascolto, grazie a Walter per la regia. Arrivederci a presto a Carlo Oliva, possibilmente già da martedì prossimo. Grazie anche a Filippo Franceschi, interprete protagonista di Caccia Vostra. A martedì prossimo alla stessa ora. Grazie a tutti. Buonasera.